Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Alle 16 del 19 marzo 2013 ero davanti a un citofono, di quelli moderni, che si sviluppano a destra e a sinistra di un obiettivo di videocamera. Sapevo che dovevo cercare il tasto controradio. Mi chiamo Antonio, sono di Bari e diciamo che nella vita faccio un imprenditore, è da sempre che ho voluto fare questo mestiere. Mi piace sviluppare business con passione, coinvolgendo un gruppo di persone che possano condividere i miei stessi interessi, i miei stessi obiettivi. C'è chi dice che il racconto sia una delle forme letterarie più difficili. E io mi sono sempre chiesta il perché di questa convinzione, visto che a me pare uno dei modi più spontanei e fondamentali dell'espressione umana. Dopotutto uno comincia ad ascoltare e a raccontare storie sin da piccolo, senza trovarci nulla di particolarmente complicato. Ho il sospetto che tanti di voi raccontino storie da una vita, eppure eccovi qui. Seduti, tutti desiderosi di sapere come si fa. Sono le 16:10 minuti di un bel venerdì, insomma, bello. Di un venerdì di quasi fine novembre. È il 22 di novembre, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e questo programma si chiama Voi siete qui. Abbiamo preso in prestito le parole di Flannery O'Connor, che era una grandissima scrittrice americana, in uno scritto che era in realtà una lezione di scrittura che lei tenne nel corso della sua vita, in cui spiegava come si scrivevano dei racconti. Lei scriveva soprattutto quello, racconti brevi. Come avete sentito, visto che ogni tanto cerco di convincervi a mettervi lì a scrivere una storia, serve veramente poco. Raccontare storie è una cosa che facciamo probabilmente tutti i giorni, quando torniamo a casa e diciamo: non sai che mi è successo oggi al lavoro. Sono arrivato, mi sono seduto, ho aperto la posta, poi a un certo punto ho sentito qualcuno che diceva una cosa, mi sono alzato, sono andato di là, è successo altro, è andata così ed è finita. Voi siete qui, @radio24.it è l'indirizzo email a cui chiediamo di continuare a raccontare la vostra storia. La proposta sembra semplice, ma non lo è. Un racconto che racconti qualcosa di voi. Mettetevi lì, pensateci un po', poi alzatevi, andate a mangiare qualcosa, uscite, poi tornate a casa e secondo me dopo un po' vi viene quell'episodio, semplice o complicato, della vostra vita, che racconta qualcosa di voi. Voi siete qui, @radio24.it. Ogni tanto chiediamo dei racconti a tema e visto che già vi stiamo chiedendo racconti legati al viaggio, una cosa che è un pochettino più a breve termine, perché riguarda venerdì prossimo. Venerdì prossimo noi, insieme ad altri programmi della radio, saremo in diretta dal vivo alla fiera degli agenti di commercio, organizzato da agenti.it, non mi veniva agenti di commercio, credo sia la prima, insomma non lo so. Comunque noi saremo lì e racconteremo una storia di un agente di commercio. Visto che la vogliamo raccontare davvero e visto che voi che siete in macchina in questo momento e forse siete agenti di commercio e forse siete in viaggio e siete andando da un cliente a un altro, forse state tornando a casa se siete più fortunati, quando arrivate andate al computer e scrivetemi una cosa che vi è successa durante il lavoro. Siete sempre in giro, siete in auto, conoscete un sacco di gente, un episodio semplice, magari anche divertente. Voi siete qui, @radio24.it, se me la mandate e se oltretutto siete alla fiera venerdì prossimo, facciamo bingo, venite lì e la raccontiamo dal vivo davanti alle persone che sono presenti. Voi siete qui, @radio24.it. Tutti gli agenti di commercio, unitevi. Continuiamo a raccontare storie, però oggi non ha a che fare con gli agenti di commercio, ha a che fare con il mondo del lavoro, la storia di oggi, perché parla di un giovane imprenditore, Antonio, che niente, a un certo punto capita per caso in un posto simile a quello in cui sono io in questo momento, un microfono, un orologio, un tecnico di là dal vetro, e fa un'intervista e a un certo punto capisce che forse quella cosa gli piace di più che non semplicemente per il tempo di un'intervista. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Le vostre imprese, le vostre aziende, se le avete fondate o se le avete create. Questa è la terza ed è la storia di Antonio. Alle 16 del 19 marzo del 2013 ero davanti a un citofono di quelli moderni che si sviluppano a destra e a sinistra di un obiettivo di videocamera. Sapevo che dovevo cercare il tasto controradio. Sì, quarto piano. Mi rispose una voce femminile che avevo già sentito in auto distrattamente nel mio zapping tra una frequenza e un'altra. Era una giornalista che aveva letto un annuncio pubblicato su Facebook dalla mia collaboratrice. Mi chiamo Antonio e ho 35 anni. Sono nato imprenditore e oggi ho la responsabilità di 3 aziende. Questa è la storia di come sono diventato proprietario della terza. Mi è sempre piaciuto darmi da fare e dar vita a progetti che coinvolgessero più persone. Sono un ingegnere e un progettista specializzato in information technology, ma da quel 19 marzo alcune cose sono cambiate. Diciamo che ho 2 aziende. La prima azienda è la consulting, che si occupa di management aziendale, mentre la seconda azienda è la Tourism Solution, che si occupa di consulenze turistiche. L'annuncio su Facebook si riferiva alla ricerca di personale per una delle mie 2 aziende ed ero stato contattato da una giornalista, appunto, che si occupava di un programma sul mondo del lavoro. Mi propose un'intervista per descrivere i profili delle risorse che cercavo e quindi accettai. Avevo deciso di incrementare il portafoglio clienti e quindi avevo bisogno di aumentare la rete vendita, così come di allargare il servizio di gestione relazione con il cliente. Salve e ben arrivato a Controradio. È stato così che sono entrato in un mondo magico. Un open space bianco e arancione, animato da ragazzi innamorati di quel mestiere, il giornalismo. Osservai attentamente ogni dettaglio. Per registrare l'intervista fui introdotto in una piccola sala insonorizzata e ricoperta di pannelli di spugna. Un po' mi ero preparato le risposte e un po' no, ero emozionato. La giornalista mi passò le cuffie e mi spiegò che avrei dovuto parlare a un paio di centimetri dal microfono. Si sedette accanto a me e iniziammo. Mi risulta difficile parlare di me, delle mie sensazioni. Eppure quell'intervista mi piacque. Rispondevo alle domande e raccontavo di me e della mia azienda, sapendo che mi avrebbero sentito migliaia di persone e che magari avrei incontrato quelle risorse umane che cercavo. Ma soprattutto mi accorsi che in quei minuti di parlato avevo intorno una piccola impresa editoriale. Vedevo la giornalista che annuiva e da un vetro potevo scorgere un altro speaker che conduceva un programma di musica aiutato da un altro ragazzo in regia. In quei minuti stavo vedendo dei professionisti che parlavano a delle orecchie in ascolto. Ed è iniziato da lì il mio interesse per fare crescere quella piccola radio trasformandola in un'azienda. Al termine dell'intervista scambiai 2 chiacchiere con la giornalista e mi iniziai ad informare sulla storia di quella che scoprii essere la prima radio libera di Bari. Un pezzetto di storia che aveva iniziato a riempire l'etere nel 1980 e che, seppur poi con pennellate più rade e affaticate, cercava di continuare a fare informazione e a passare buona musica, o più semplicemente a fare compagnia a una città. Controradio è un'emittente radiofonica di Bari, nata nel 1980, ed è un'emittente storica perché naturalmente è nata come prima radio libera di Bari. Diciamo, una caratteristica molto importante che si è sempre contraddistinta rispetto ad altre radio per la qualità musicale proposta ai propri ascoltatori. Quando prendo una decisione lo faccio rapidamente, riesco a vedere sin da subito le evoluzioni e anche in questo caso non persi tempo. Con una scelta definita audace e anche folle, viste le condizioni in cui versa il mercato dell'editoria, decisi di investire in Controradio, che è diventata la mia terza azienda. Colonne sonore in libertà che tengono sveglia la notte, poi riscaldano il giorno, ritrovo un contorno e saturo pregno e degno di me. Forse perché radio e sezioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sezioni contagiano per collimare informazioni. Anche perché radio e sezioni si nutrono con autentiche pulsazioni. Un paio di settimane fa ho incontrato per un paio di giorni dei ragazzi tra i 20 e i 30 anni che erano interessati a quello che faccio e io gli ho raccontato della radio e del modo in cui insieme a Tiziano abbiamo fatto gli altri e questo programma qui. Ho semplicemente descritto il nostro metodo di lavoro, ho spiegato che non è quello giusto ma che è semplicemente il nostro, che è quello che abbiamo messo a punto per essere in onda tutti i giorni con una storia diversa. Poi a un certo punto uno di loro mi ha fatto una domanda che è del tutto lecita, cioè come si fa a lavorare in radio? Io non ho saputo rispondergli se non dicendo come era capitato a me. Cioè che quando avevo 20 anni, dopo averne ascoltata un sacco, mi era venuta voglia di provarci. E allora contattai l'unica persona che sapevo lavorava per una radio di Milano, che si chiama Radio Popolare, e gli chiesi per piacere di portarmici. Lui molto gentilmente lo fece, ma la cosa finì più o meno lì, con un incontro breve e cordiale con un conduttore. Dopo qualche tempo mi rifeci vivo e lui mi chiese se avessi voglia quella sera di andare in diretta di lui, con lui, insieme a lui. Era, ed è tuttora, una radio piccola ma arrembante e quindi si poteva permettere di farlo. Da lì, sempre dando un po' di fastidio, cominciai a lavoricchiare per loro e poi lentamente le cose, lavorandoci, sono arrivate fino ad oggi. Insomma, ho raccontato loro questa storia e poi mi sono accorto che però, probabilmente oggi, a distanza di più di 15 anni, probabilmente non avrei fatto così. Cioè, più che andare in giro a cercare qualcosa o qualcuno che mi dessero ascolto o credito, oggi avrei provato a fare delle cose. Non so come, forse con YouTube o forse con delle piattaforme di audio broadcasting, non lo so. Ma avrei provato a fare le cose da me, invece che chiedere a qualcun altro. E non lo so, magari mi sarebbe andata peggio, ma probabilmente avrei fatto così. Antonio fa l'imprenditore, e in fondo gli imprenditori fanno esattamente questo, non cercano un lavoro, ma creano un lavoro. Ha preso in mano una radio, senza nemmeno sapere come si facesse, e le ha dato un'altra possibilità. Perché ci credeva e perché gli piace. Gli piace per le ragioni che piace a tutti noi. Perché la radio arriva dalla gente, entra nelle case e ti parla direttamente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. È in radio ovviamente Antonio nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. C'è una parete super arancione e una parete invece fatta di materiale insonorizzante, di quello con le puntine che escono. C'è un microfono davanti, ha una cuffia che tiene solo con un orecchio, un po' come fanno i DJ quelli fighi, avete presente quelli che stanno con la testa piegata così, anche se non ha dei dischi o dei piatti davanti. Ha una maglietta bianca e devo dire, non so cosa sto per dire, non so se ha un significato quello che sto per dire, ma non ha per niente la faccia da imprenditore. Pronto Antonio? Pronto, ciao Matteo, buongiorno. Come stai? Bene, bene, bene, grazie. Dove sei, in radio? Sì, sono in radio in questo momento. Senti, tu hai capito cosa intendo quando dici che non hai la faccia da imprenditore? Beh, sì, forse anche per la situazione, diciamo. No, più che altro perché sembri giovanissimo e in Italia di solito un imprenditore è un signore con una giacca, che ha una cinquantina d'anni, magari anche un pelo sovrappeso. Però questa è nella nostra scarsa fantasia, nella mia scarsa fantasia. Tu invece, scusami, ne hai già tre praticamente di aziende, hai 35 anni. Sì. Roba che manco fossi in Finlandia. No, bisogna vedere anche quali sono le dimensioni delle aziende, però devo dire che ne vado molto fiero, indipendentemente dalla realtà. Quante persone lavorano con te o per te? Allora, diciamo che attualmente in radio l'organico è abbastanza complesso, però possiamo dire che ci lavorano attualmente 8 persone, okay. Qui a Contro Radio. Okay. E nelle altre invece? Nelle altre aziende invece è una situazione diversa, più o meno, ecco perché parlavo anche di grandezza, quindi si può parlare di 5-6 elementi, e in un'altra invece un po' di più, quindi si parla di più elementi sopra i 10. Senti, ma scusa una cosa, io posso immaginare come tu faccia del profitto con le altre due. Sì. Hai capito la domanda, quindi... Sì, sì. L'editoria è in crisi, questo è vero, però c'è una cosa molto bella nella radio che è la magia. Trasformare questa magia in profitto è veramente... È un'altra magia a cui siamo tutti interessati. Magia, sì. Sì, sì, però è molto motivante anche per i ragazzi che ho trovato e per la grande passione che c'è in radio, perché la radio è veramente una cosa straordinaria. Tra l'altro tu dici una cosa molto precisa nel tuo racconto, che voglio provare a cercare di trasformare, che è la cosa che stai dicendo adesso, voglio provare a cercare di trasformare questa radio in un'azienda. A uno che proprio non ha idea di come sia il lavoro di imprenditore, e in due parole, come si trasforma una piccola realtà, una radio in questo caso, in un'azienda? Cioè, quali sono le leve che devi muovere? Allora, io penso che non sia stato tanto difficile, siamo già a un buon punto. La leva che si muovono è quella di innovare i servizi, quindi sostanzialmente anche qui ho avuto modo di mettere su una rete vendita e di andare in giro, non di vendere gli spot soliti tradizionali radiofonici, ma di arricchirli con un'offerta ad esempio più innovativa, quindi anche con sono cresciute molto le nostre pagine sociali, quindi abbiamo avuto anche dei milestone, quindi la presenza su Facebook. Poi ad esempio io, naturalmente gestendo le altre aziende, puntando molto sulla relazione con i clienti, ho cercato anche di seguire maggiormente diciamo coloro che compravano gli spot e dandogli anche una tangibilità diversa, seguendo di più. Ecco perché parlo di trasformare la radio in azienda. Diciamo che in questo stiamo lavorando tutti molto bene, in perfetta sinergia. Quanto tempo vi date per arrivare, non so, il break even point, in pari, chiamalo come vuoi? Il break even point diciamo che l'abbiamo quasi raggiunto. Bella. Quindi in 4 mesi siamo riusciti, ma perché più delle volte le radio hanno il problema di non coniugare perfettamente l'IT, cioè l'information technology, quindi magari cercano sempre di proporre gli spot radiofonici quando poi si possono arricchire, come dicevo prima, ad esempio con altri strumenti più performanti e soprattutto innovativi e più odierni. Ecco, Antonio, tu riesci ad avere una vita privata anche, c'hai una famiglia, c'hai dei figli, c'hai un hobby? No, non nel senso che non riesci o... Allora, io dico che la mia fortuna è questa, io amo fare quello che faccio e questo è fondamentale, mi emoziono e vivo molto per questo. Vabbè, non c'hai uno straccio di fidanzata, ci stai dicendo, Antonio, non ce l'hai, ce l'hai o non ce l'hai? No, invece c'è, devo dire che bisogna avere ti molta supporto. Pazienza. Lei deve avere molta pazienza. Assolutamente sì, penso che sia una cosa molto... Antonio, guarda, ti dovrei salutare, ma ti voglio fare un'ultima domanda, perché ed è una domanda retorica, quindi preparati, ed è anche molto banale. Però tu sei un imprenditore giovanissimo del Sud Italia. Sì. Ok, sai già dove sto andando. Si può fare questa roba qua, quindi, giusto? Sì, si può fare. Okay. Può fare. Vabbè. Che... mi basta questo. No, ma allora, bisogna, io dico sempre una cosa. Hai 30 secondi, fattori. Antonio. Ci sono dei fattori, insomma, però bisogna impegnarsi di più, questo sì. Se c'è qualcosa di sfavorevole, bisogna impegnarsi di più per ottenere qualcosa. Guarda, Antonio, ed è con questa locuzione che io chiudo questa settimana di programma. Bisogna impegnarsi di più. Ti ringrazio e ti faccio un sacco di in bocca al lupo a te e a tutta la radio, ovviamente, a tutta Contro Radio di Bari. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro. Ciao Antonio, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666, arrivano tutti quelli che i messaggi di persone che fanno, e sono diversi quelli che fanno la radio, che se la fanno in qualche modo. Siamo un gruppo di ragazzi, avvocati, ingegneri, commercialisti, medici e studenti, ma la passione per quel microfono, questo, ci accomuna e ora siamo tutti insieme in un garage. Abbiamo creato una web radio, le famose web garage radio. Voi siete qui, @radio24.it, per continuare a mandare i vostri racconti, anche quelli degli agenti di commercio, quando arrivate a casa dopo una giornata in macchina, dopo aver incontrato un sacco di clienti. Oggi prendetevi mezz'ora e venerdì ci facciamo una puntata in diretta della fiera degli agenti di commercio. Quindi scrivete, raccontate storie e scaricatevi il podcast di questo programma. Lo trovate sul sito di Radio 24, ma anche su iTunes o su tutte le piattaforme ormai dove potete trovare il podcast. Vi lascio ad Oscar Giannino con la frase: bisogna impegnarsi di più. Ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Ringrazio soprattutto Antonio. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Giorgio, vivo a Biella. La storia di lunedì è la mia e parla di un messaggio in bottiglia. Questa è la mia storia e io sono qui. Siete qui.